Sono d'accordo, lei ha completamente ragione. Purtroppo in tutti i campi c'è da migliorare, sempre, in assoluto. I concimi chimici, ci si potrebbe fare a meno dei concimi chimici, quello è chiaro. Però se non ci danno la possibilità di fare delle concimazioni adeguate con il letame oramai non si fa più. Prima lei andava in campagna e vedeva quei mucchi di letame che erano cacca di vacca mischiata a paglia. Questa cosa non la si può più fare, è vietata. E allora uno deve comprare, è vietato, non si possono più buttare, non si possono più fare quei bei mucchi dove per 6 mesi il letame fermentava. È sempre stato così, ma è una ruota che gira. Io dico, basterebbe questo per fare il concime. Non si può più perché inquina, perché la cacca inquina, perché puzza, perché dà fastidio. La cacca puzza, la cacca dà fastidio, l'odore dà fastidio, tutte queste cose che sono naturali, però quando si vedono le industrie che buttano nei fossi quelle acque che sembrano pulite, ma come sono pulite? Se non ci sono i pesci, voi trovate ancora i pesci nei fossi? Io non li trovo più. Questa è la realtà. A me piacerebbe buttare il mio letame, perché il letame è una cosa naturale, invece non si può più. Il letame lo devi conservare, lo devi tenere lì e in scatolare. Sì, lo butti nei campi, ma nei periodi che ti vengono detti da... Ecco, però cosa succede? Che se ci sono dei periodi, cosa succede? È paradossale, perché ti dicono tu in questo periodo puoi buttare giù il letame. È un giorno. Tutti buttano giù il letame in quel giorno lì. Cosa risolve? Vuol dire che tutti buttano in quel giorno il letame quel giorno lì e quindi c'è un eccesso perché tutti in quel giorno lì buttano il letame. Questo è buon senso. È la CE che gestisce, non siamo noi. Ci sono leggi che sono, ci sono. L'AS, tutto. Beh, non è che bisogna essere così pessimisti, nel senso, secondo me partiamo da un'esperienza come questa, secondo me molto bella, dove trovi i produttori biologici, trovi quelli che non sono biologici ma sono diciamo a metà, e quindi in questi anni si è fatto molto. Ma io devo dire che, ricordando anche della mia esperienza universitaria, negli anni Ottanta, per esempio, sui diserbi, ci insegnavano che si faceva il diserbo del mais, del riso e tutte, e non c'era nessun tipo di cultura alternativa. Per cui anch'io ci ho messo anni per capire che forse era meglio non usare i diserbi o usarli in piccole parti solo dove non si poteva. Perché purtroppo noi siamo bombardati anche dalle industrie, no? Che ti vengono lì. Allora, noi forse facciamo parte di un certo giro di agricoltori abbastanza sensibili, però se viene un rappresentante e ti dice per far crescere bene il tuo mais usa questo diserbante, l'agricoltore probabilmente che non ha tempo di informarsi lo fa, no? Allora in questi anni si è lavorato tantissimo per migliorare la sensibilità, no, degli agricoltori e secondo me si sta facendo e si farà molto. Però è chiaro che è molto bello secondo me trovarsi con i cittadini per capire, no, quello che uno fa da una parte e quello che si potrebbe fare. Per esempio sul discorso del prezzo del latte si potrebbero dire tantissime cose. Quanti cittadini sanno che noi fino a settembre prendevamo 33 centesimi al litro e voi quanto pagate il vostro latte al consumo? 1,30 euro, ma l'alta qualità altro che 1,30 euro. E allora tutto... Questa differenza va a vantaggio di chi? E noi abbiamo avuto il prezzo bloccato per 6 anni, 7 anni, non lo so. Adesso si è sbloccato, a settembre prenderemo 42, che è stato un aumento incredibile perché c'è carenza di latte. Ma questo prezzo noi lo prenderemo a dicembre perché siamo pagati a 90, abbiamo il pagamento a 90 giorni alla consegna. Nei negozi l'hanno aumentato subito, appena c'è stato l'aumento, voi avete avuto subito l'aumento del prezzo del latte, ma noi paghiamo abbiamo ancora i nostri 33 centesimi con i mangimi che da giugno aumentano ogni mese perché c'è carenza di mais. Queste cose è bello potersele dire qua, no? perché secondo me i consumatori possono fare tanto, le associazioni dei consumatori, i GAS, i gruppi di acquisto possono fare tanto, i mercati contadini che finalmente adesso si potranno fare, che non si potevano più fare, potranno portare i prodotti degli agricoltori direttamente al cittadino, no? E quindi forse la gente andrà un po' meno nella grande distribuzione, speriamo che questo avvenga, no? Un'altra cosa positiva secondo me è il nascere degli agriturismi, il diffondersi di queste realtà che avvicinano proprio culture diverse e quindi aiutano sia l'agricoltore a lavorare meglio sulla terra, a far conoscere quello che fa, sia il cittadino a visitare queste aziende, no? Speriamo, insomma.